Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. È domenica 14 febbraio 2010. Sono con i miei bambini e mia moglie e sto andando a Pordenone per vedere i carri mascherati. Squilla il cellulare. Buongiorno ingegnere, abbiamo bisogno di lei ad Haiti per costruire protesi. È disposto a partire? Il suo aereo è martedì. Sono Marco, ho 38 anni e sono un bioingegnere e vivo a Pordenone. Ci sono storie, ci sono puntate di questo programma che racconta storie e ogni giorno ne racconta una diversa, che arriva da fuori, che arriva dagli ascoltatori di questo programma o da qualcuno che c'è passato e ha deciso di raccontare un episodio della propria vita. Se non l'avete ancora fatto, se avete voglia, voi siete qui, @radio24.it. Dicevo, ci sono storie che toccano un pochettino più nel profondo di altre, perché vanno a fondo, magari vanno anche lontano e raccontano di un mondo che non conosci e raccontano di vite che non conosci, vite che in questo caso sono molto vicine alla disperazione e che Marco, il protagonista e autore della storia, aiuta a sollevarsi, in questo caso letteralmente. 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. Se avete voglia di raccontare qual è il motivo per cui voi partireste domani. Questa cosa è successa a Marco, all'autore del programma, Marco della puntata, perdonatemi. Marco è un protesista, se ha senso questo termine, cioè costruisce protesi, è un ingegnere biomedico, ma dopo ce lo dirà meglio lui, e nella vita fa quello, costruisce protesi per arti che sono amputati. È stato chiamato al volo per andare nel 2010 ad Haiti e lui ha detto di sì, proprio da un giorno all'altro. Se c'è un motivo, qualunque esso sia, per il quale voi partireste domani ad una telefonata che vi chiede di partire, raccontatelo al 349-238-6666. Se no, se siete davanti a un computer, se avete il profilo Facebook aperto, se avete un profilo Facebook ed è chiuso non ci credo, se avete un profilo Facebook è aperto esiste il profilo del programma che voi siete qui, Radio 24. Come scrive Lucia, io l'ho già fatto, sono partita da un giorno all'altro per un pretesto abbastanza valido, il lavoro, ma non così tanto da giustificare tutta quella fretta. E ancora Valeria, io partirei per un contratto di lavoro. Vabbè, il lavoro è chiaramente la prima cosa per cui tutti dicono sì, partirei domani. Un contratto di lavoro che mi permetta di costruirmi finalmente una vita e un'indipendenza che inseguo da oltre 10 anni. Non si può vivere sempre alla giornata, e c'hai ragione anche te. Marta scrive, noi l'abbiamo fatto, credo che per noi intenda lei e il suo compagno o suo marito, siamo partiti per Bruxelles da 5 anni e viviamo qui. Nessun rimpianto ad aver mollato un paese dove non potevamo vivere insieme perché non avevamo abbastanza soldi per pagare un affitto. Qui, ora, ci siamo comprati la casa. 349-238-6666, il motivo per cui partireste domani mattina. Marco lo ha fatto per questo motivo qui. È domenica 14 febbraio 2010. Sono con i miei bambini e mia moglie. Sto andando a Pordenone per vedere i carri mascherati. Squilla il cellulare e mi sento dire «Buongiorno ingegnere, sono Maria Vittoria». So che posso sembrare folle con queste mie parole, ma abbiamo bisogno di lei ad Haiti per costruire protesi. È disposto a partire per costruire un laboratorio e iniziare la produzione? Il suo aereo è martedì. Io rimango sgomento, rispondo subito di sì, ma dico che martedì non posso partire, che mi devo organizzare, ma lunedì successivo sarò pronto per la partenza. E allora vado dal mio amico Silvio, un terapista di Pordenone, un uomo con anni di esperienza di missione in Africa, e gli chiedo di venire con me. Lui pensa un po' e dice «Me lo sentivo che sarei andato ad Haiti». E lì mi dà la sua disponibilità a partire. Ecco, quel sì ha cambiato la mia vita per sempre. Sono spaventato. Di Haiti non avevo mai sentito parlare, solo dai telegiornali, per quel terremoto devastante. E adesso che faccio, penso. Quella notte non ho dormito. Avevo in mente solo le immagini di distruzione e di morte che mi sfilavano nella mente. È lunedì 15, comincio a organizzarmi, sempre spaventato ma molto determinato. Comincio a telefonare freneticamente ai miei fornitori, anche loro increduli sull'impresa titanica da portare a termine. Ma ci credono anche loro e si fanno in quattro per fornire tutte le macchine e i materiali di cui il laboratorio ha bisogno. Dopo decine di telefonate, il container è pronto per la spedizione. Per una missione come questa serve tanto studio, serve conoscere tanto il terzo mondo, una buona dose di buona volontà e una buona dose di pelo sullo stomaco. In quella settimana vedo i miei due bambini preoccupati per il viaggio. Francesco, il più grande, mi dice: «Papà, vengo anch'io ad Haiti. Anche io so costruire le gambe». Lo abbraccio forte, gli dico di non preoccuparsi, che torno presto. Il tempo intanto scorre velocissimo e arriva il fatidico giorno. Lunedì 22. Silvio ed io partiamo da Fiume Veneto per Malpensa. Arriviamo al terminal, siamo i primi. Alla spicciolata poi arrivano tutti gli altri. Paolo, Ettore, Maria Vittoria ed Emma. Finalmente le voci sentite tanto al telefono prendono anche un volto. Cominciamo a fare conoscenza e la tensione si allenta con il passare del tempo. Dopo un volo di 10 ore saliamo subito sul pulmino che ci porta all'orfanotrofio NPH della Repubblica Dominicana. Ma quella non è la nostra meta. Mangiamo e ci rimettiamo in viaggio, destinazione Haiti. È notte, fa terribilmente caldo. Siamo tutti stanchi e tesi. Dormiamo a tratti svegliati da qualche salto per le buche in strada. Alle 7 di mattina siamo alla frontiera. Passiamo abbastanza in fretta. Il paesaggio dalla Repubblica Dominicana ad Haiti cambia mano a mano che ci avviciniamo a Port-au-Prince. Sempre più povertà, sempre più case distrutte. Dopo circa 2 ore ci siamo. Si aprono i cancelli del famoso ospedale San Damien. Scendo dal pulmino. Mi manca il fiato per qualche istante. Di fronte a me una distesa di persone riempiono i giardini dell'ospedale. Vedo i loro occhi impauriti e subito mi concentro sugli amputati. In un colpo d'occhio ne conto almeno 10, ma osservando meglio vedo che sono molti di più. Ho solo il tempo di bere un caffè e poi mi portano alla casa dei piccoli angeli, dove dovrà sorgere il laboratorio. In pochi istanti vedo il possibile layout e poi cominciamo a scaricare e a organizzare il magazzino delle materie prime. Cominciamo a fare tutti gli allacciamenti elettrici ai generatori del complesso ospedaliero. Dopo circa 14 ore di lavoro ci siamo e diamo l'annuncio. Siamo pronti a partire con la produzione. Durante l'allestimento mi sento addosso gli occhi dei giornalisti stranieri e degli haitiani stessi. Vedendomi in questa situazione, Norma, la terapista del centro di riabilitazione, mi dice: «Guarda che sei il primo». Le chiedo: «Il primo di che?» E lei mi dice: «Il primo protesista che arriva ad Haiti dopo il terremoto». Mi tremano le gambe. Passano poche ore e poi decine di minuti dall'allestimento del laboratorio. E comincia una processione di mamme con i propri figli mutilati. Mi viene un nodo alla gola, ma resisto, e con Silvio cominciamo il lavoro. Mentre io prendo le misure, Silvio e Norma curano le ferite. A tarda sera le prime 2 protesi sono pronte per essere applicate. Decidiamo di andare a riposare, ma chiaramente non riesco a dormire. Vado sul terrazzo della casa dei piccoli angeli per bere un caffè e fumare una sigaretta e scoppio a piangere. È un pianto profondo, liberatorio. La mattina siamo in piedi alle 5:30, pronti per riprendere il lavoro. Alle 8 precise arriva Niel. Niel è una bambina di 11 anni. All'inizio è stranamente euforica, ma quando mi giro verso di lei con la protesi, dopo un attimo di silenzio, la bambina comincia a urlare, disperata, e mi dice: «Dov'è la mia gamba?». Io non capisco, chiedo alla mamma, e lei, sconsolata, mi dice: «Niel pensava che le riattaccassi la sua gamba, quella che è rimasta sotto le macerie». Io non mi sono mai sentito così male in vita mia. Rispetto a quel ricordo, la cosa più bella è rivedere i bambini camminare. Questa è la cosa meravigliosa. L'altra cosa bella è vedere come questo momento in cui l'Italia è così un pochettino allo sfascio, vedere come noi italiani, specialmente laggiù, questo l'ho visto, dai militari ai volontari, ai medici, la Croce Rossa, tutti, quanto bene sappiamo fare tutti insieme, ecco. I giorni seguenti sono stati pesantissimi. Per ogni bambino che mi veniva presentato, mi raccontavano la sua storia. E tutte le storie si assomigliavano terribilmente. Famiglie sterminate, decine di giorni sotto le macerie, magari sotto al cadavere di un genitore o di un fratello. Veronica, ad esempio, una bambina di 3 anni, ha perso 8 dei 10 componenti della sua famiglia. Le resta il papà, al quale rimane avvinghiata finché non fa confidenza con me. La sua è la storia peggiore che abbia sentito. È rimasta 25 giorni sotto le macerie. Ha visto sua sorella morirle sopra. Il muro ha spinto il capo della sorella contro il suo e i denti di quel piccolo cadavere le hanno procurato una cicatrice scura a forma di ellissoide. Un segno che porterà per tanto tempo e le farà ricordare quell'incubo. Nonostante tutto, Veronica ha un sorriso bellissimo. Mi guarda con 2 occhi curiosi e rimane attenta a tutto ciò che faccio. Le applico la protesi. Lei prova a stare in equilibrio e, aiutata dalla terapista Norma, esce dal laboratorio. Poi si ferma, si gira verso di me e in italiano mi dice: «Grazie, Marco». In quei giorni si presentano al laboratorio tanti haitiani per dare una mano. Tra questi, un ragazzotto intraprendente che, senza battere ciglio, si mette ad aiutarmi. È bravo, mi piace, lo tengo con me. Si chiama James. James oggi dirige il laboratorio in assenza di volontari italiani e poco alla volta sta imparando a costruire protesi per i suoi connazionali. Ad oggi si è anche aggiunta una ragazza di nome Nadesh e un ragazzo di nome Daniel. Insomma, l'attività ha cominciato a vivere di vita propria. Dopo 10 giorni la mia missione finisce e torno in Italia. Da allora non ho mai smesso di lavorare per la Fondazione Rava. Dopo di me si sono alternati altri tecnici italiani. In maggio sono ritornato ad Haiti e ho ritrovato i bambini ai quali avevo fatto le protesi. Erano nella nuova zona dell'ospedale dove si fa riabilitazione e stavano camminando. La situazione da febbraio era davvero cambiata. I problemi rimangono molti, ma un piccolo germoglio di speranza è nato. Grazie all'aiuto di molti italiani, oggi quel laboratorio offre protesi con standard europei. In ottobre ritornerò al Saint Damien per installare altri macchinari specifici per aumentare la produzione e mettere in piedi più persone possibile. Nel viaggio di ritorno porterò con me James, il quale starà in Italia diversi mesi per perfezionare la sua tecnica. Verrà istruito proprio da alcuni tecnici che sono stati ad Haiti e che lo terranno a bottega per aiutarlo ad aiutare la sua gente. The lines are on board, it's quiet offshore, but the wind blows. The children are here, but the women just stare from the windows. See the lawns outside, green, green lawns, oh how they glow. And I spotted you there. Partirei anche domani mattina per la notizia di una compatibilità per trapianto. Sono donatore di midollo osseo, ciao e grazie per la compagnia, Danilo. Oppure Emanuele, nell'agosto del 2001 mi hanno detto: vieni in Arabia Saudita per 6 mesi a fare decorazioni in oro ad una villa principesca. Ho pensato 2 minuti e ho detto sì. Facevo e faccio progettazione elettronica. Più o meno lavoro e volontariato o solidarietà, chiamiamola, non so, il modo forse non conta. Però è di fatto quello che Marco ha fatto, ha preso ed è partito. Pronto Marco? Pronto, eccomi. Ciao, buongiorno, come stai? Ciao, bene, bene, grazie. Dove ti trovi? Dove ti trovi adesso, Marco? Evidentemente si trova in un posto in cui c'è poco campo, probabilmente. 349-238-6666, mentre aspettiamo di ritrovare Marco, vi leggo qualche altro messaggio che è arrivato. Alessandra ha scritto: ciao Matteo, ho 16 anni e partirei domani mattina anche solo per evitare le interrogazioni di italiano, filosofia e storia. Poi però ascolto certe storie, quelle storie, e mi accorgo che i miei problemi non sono nulla in confronto a quelli di ragazzi della mia età che non hanno neanche la possibilità di vivere quel domani che io sto evitando. Allora, occhio, questa ha 16 anni. Allora mi rimbocco le maniche e decido che non è fuggendo che guarisco le mie sofferenze. Quindi domani mattina parto per un'altra giornata di scuola, ma soprattutto per un'altra nuova pagina della mia vita. Grazie, Alessandra. 349-238-6666. Nel frattempo però abbiamo recuperato Marco. Pronto, eccoci. Marco? Eccoci qua. Pronto, ciao. Dove sei, Marco? Sono a Pordenone, però sta venendo giù il finimondo qua, per cui... Ah, ok. Allora, ecco, insomma, cerchiamo tra una goccia e l'altra di chiacchierare. Marco, sì, la prima cosa che voglio chiederti è: come si diventa un protesista, se il termine ha senso ed è appropriato? Ma sì, il termine è giusto. La mia è stata, diciamo, una folgorazione quando studiavo ingegneria al Politecnico di Torino. Io mi ricordo che in un corso di costruzioni biomediche ci fecero vedere queste protesi, è stato un amore a prima vista lì. Quindi di fatto tu, ma questo è l'iter normale, cioè uno studia ingegneria e poi si specializza? No, di solito si fa tecnico ortopedico e poi si arriva a fare il protesista. Io ho seguito un'altra strada, diciamo. Ma quindi tu lavori sui macchinari che producono le protesi o produci manualmente le protesi? No, le produco manualmente le protesi. Ma che tipo di lavoro è, scusami? È un lavoro, cioè ci sono degli stampi, proprio praticamente? Gli stampi, c'è una parte di interfaccia col corpo che praticamente questo invaso dove si infila il moncone, quello sì, che rimane dell'arto, e poi si montano tutti i moduli che sono pezzi che si comprano chiaramente, quindi tubi, articolazioni, ginocchio, caviglia, piedi oppure braccia e tutto quello che ne consegue. Ah, okay. E lo stampo si fa personalizzato, persona per persona, ecco. Cioè lo stampo sulla parte di arto che rimane è fatto personalizzato, il resto sono dei moduli preprodotti? Preprodotti, esatto. Ok, esatto. Tu quindi lavori in un laboratorio di un'azienda, non è tuo? C'è un'azienda? Lavoro in un'azienda, in un'ortopedia di Udine, sì. Che è specializzata in questo, nel fare protesi? Sì, che fa protesi. Quindi, esatto. Quindi diciamo non è stata proprio una sorpresa il fatto che ti chiamassero dicendoti ha voglia di partire, servono delle protesi fatte da lei? No, perché comunque avevo già fatto, sì, io giro spesso per questi motivi, o per guerre o per cose un po' strane, sì, mi trovo a dover partire e andare, come è successo in Uganda, come è successo in Kenya, come adesso sto facendo un progetto per dei bambini provenienti dalla Mongolia. Per cui sì. Ma scusami, perché in Mongolia, perdonami l'ignoranza geopolitica, ci sono situazioni per cui ci sono diverse persone amputate, cioè situazioni di guerra? Sì. No, di guerra no, però errori medici, malattie delle più varie, anche la lebbra, per esempio, una. La lebbra, cioè esiste ancora la lebbra? Sì, sì, in quelle parti lì sì. Anche in Cina, per esempio, c'è ancora molto. Senti, invece Marco, prima, chiacchierando fuori onda, mi hai raccontato di una cosa che mi ha abbastanza colpito. Cioè mi hai detto che di fatto in Italia sta tornando ad esserci più bisogno del tuo lavoro a causa del periodo terribile che stiamo vivendo. Però non ho capito esattamente bene il perché. Ma è un periodo molto particolare, cioè le sacche di povertà stanno aumentando, per cui... Il mio lavoro qua è sempre più necessario, vuoi perché è un po' un mio punto di vista, cioè io voglio mettere in piedi le persone con il massimo della tecnologia, per cui cerco di lavorare tantissimo per far sì di avere anche prezzi dei moduli più bassi. Perdonami, cioè una protesi è fornita dalla sanità pubblica, giusto? Sì, esatto, sì. Però con dei componenti fino a un certo livello, i componenti più costosi ognuno se li deve pagare. Ah, ho capito. E poi anche problematiche, che ne so, se il paziente cambia, io vi faccio l'esempio di, che ne so, un ragazzo che sto seguendo adesso, amputato, uno dei tanti, amputato per un tumore, ha perso il lavoro, ha perso tutto, con monconi che cambiano nel tempo... E purtroppo lì devi adeguare la protesi. Sì, ho capito. Tanto lavoro e tanto da fare. Impegno, Marco, sì. Scusami, io purtroppo ti devo salutare. L'ultima cosa è: sei in partenza per qualche posto a breve oppure no? A breve, no. No, okay. Sicuramente dovrò partire dovevo partire e poi mi è saltato per il viaggio. Va bene. Marco, ripartirò. Grazie mille per la chiacchiera e per il tuo lavoro e per il racconto. Grazie a te, ciao. Grazie mille, ciao, a presto. 349-238-6666, partirei domani per aiutare il popolo cubano. Allora, c'è da dire che secondo me questa foto non rende tutto il merito possibile a Marco. Sembra che ha 38 anni, sembra un po' più anziano, forse è semplicemente un po' più stanco. O forse è stanco perché si trova in montagna, alle sue spalle sono quelle che sono chiaramente le Dolomiti, direi. Dico chiaramente, sono le Dolomiti, vero, da questa foto di là, voi che l'avete vista andate a vederla sul sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui. Ha indosso infatti una tenuta montanara, una magliettina, dei pantaloni leggeri, ha la faccia sorridente e soddisfatta, come di chi è felice di quello che fa. Pro Protesi, sostantivo femminile. In chirurgia, la sostituzione di arti o segmenti d'arto mancanti mediante speciali dispositivi. Generico, qualsiasi apparecchio sostitutivo di un organo mancante o asportato. In linguistica, aggiunta di un fonema all'inizio di una parola. Piccolo ambiente costruito a fianco dell'abside in alcune basiliche paleocristiane. Etimo, dal latino, protesis, dal greco, protesis, l'atto di metter davanti, data secolo XVI. Protesis e protesis? Niente, io devo mettermi a studiare il greco e il latino per fare questa cosa. Ma va benissimo così, Alessandra, va benissimo così. Sono partito a Tripoli, 349-238-6666. Il racconto di Marco ha creato, come sempre succede con ogni racconto, non solo la linea guida della giornata, che è quella del motivo per cui partireste, ma altre. E una di queste riguarda gli italiani, come sono ben visti gli italiani all'estero. Vi faccio un esempio. Salvatore: sono partito a Tripoli che avevo 20 anni per imparare il mestiere. Sono elettrotecnico. Dovevo partire per tre mesi, ho fatto 5 anni, abbiamo costruito il CNR libico, ho continuato a lavorare in giro per il mondo, non potete capire quanto siano amati e apprezzati noi italiani all'estero, un abbraccio. E poi un'altra strada che ha aperto la storia di, più che la storia, la telefonata con Marco, riguarda appunto come la sanità passi delle cose, ma non, diciamo, delle cose di base, tra cui le protesi appunto di cui parlava lui, ma non quelle più elaborate, forse più utili. Anche per le protesi acustiche, mi scrive Andrea, la sanità ti passa quelle di base, ma se come abbiamo fatto io e mia moglie per nostro figlio, vuoi quelle che fanno sentire bene, devi pagare di tasca tua diversi soldi. 349-238-6666. Quando abbiamo letto la storia di Marco, quasi contemporaneamente ne abbiamo letto un'altra, di un altro ascoltatore che si chiama anche lui Marco, e quindi abbiamo deciso di dedicare questa puntata a queste due storie. Questo secondo Marco è anche lui un... No, non è vero, non è anche lui niente, perché il Marco di prima è un ingegnere. Questo Marco invece è un cooperante, uno di quelli che parte e va a aiutare le persone in queste missioni che si organizzano, spesso organizzate dalla ONG. E c'era un pezzo del suo racconto che era molto lungo, che raccontava di una persona che non è né un cooperante né un ingegnere, è un missionario e che da 60 anni vive in Africa. E la sua faccia ricorda un po' quella di Kurz, avete presente Cuore di Tenebra, da come la descrive, e soprattutto la tua faccia ti dà l'idea di come sia la faccia di una persona che vive in quei posti tutta la vita. Kampala, Uganda, 9 dicembre 1997. Era verso sera e un missionario comboniano passò a trovarmi. Lo avevo conosciuto anni prima e fu tra quelli che mi consigliarono di non andare in Ruanda nel 97 per un breve progetto alimentare di 2 settimane. Consiglio che non seguì. Avevo 87 anni, stavo in Uganda da 60. Era arrivato qui nel 42, risalendo il corso del Nilo dall'Egitto, poi attraverso il Sudan, col battello, su quello che viene chiamato Nilo Bianco, sino a Juba, in Sud Sudan, proseguendo poi il viaggio con le carovane dell'epoca attraverso l'Uganda del Nord, sino alla capitale. Erano viaggi quelli dove la tempra veniva messa alla prova dall'afa, dalle zanzare, dalle possibili febbri, da cibi che spesso, per la mancanza di anticorpi del caso, causavano dissenterie spossanti. Lo guardavo come fosse un'icona, totalmente catturato da quest'uomo piccolo, asciutto, con una voce che sembrava provenire direttamente dalla lontananza dei suoi ricordi, flebile e sussurrata. Il suo viso triangolare percorso da rughe pareva roso lentamente dai venti della savana. Occhiali spessi e radi capelli bianchi davano il giusto contorno alla sua età. Mi stava raccontando della sua vita attuale e intanto sorseggiava una tazza di tè che avevo preparato con foglie verdi e un pezzo di cannella. Quando ecco che comincia a raccontare, come in stato di trance, di quando 27enne cominciò la sua vita missionaria, della natura ancora selvaggia di allora, senza strade e veicoli a motori, della bellezza del Nilo, con gli ippopotami immersi nell'acqua e i coccodrilli sulle rive, con le fauci aperte per la digestione. E nel 62 poi gli inglesi, mi disse, se ne andarono. E finì così il periodo coloniale, quello di occupazione, perlomeno. Lo ascoltavo, ma era come sfogliare un capitolo di storia. Lui era un pezzo di storia africana. Gli guardavo il piccolo crocifisso di ebano che gli pendeva dal collo. Poi cessò di parlare e lentamente si addormentò. There's a palace of fallen, there's a smoke in the sky. There's a boy running down into the lowlands tonight. And he's catching the train to where he's heard you have been. He's a fool now among us, but a dreamer within, dreaming of you. And on that day there was snowfall in the street, yellow light. And they'd quit the building rails just by those dark shimmer eyes. In that land there's a winter, and that winter's a day. In that day there's a moment when it all goes your way. And you know it's a lion's heart that will tumble and tear apart when he's coming down the hills for you. Can you still now remember who's been hiding up there? Through his howling at twilight, all his songs of despair. Do you remember the caller of black and white crime? Well, he lives by that memory and falls from his mind. And you know it's a lion's heart that will tumble and tear apart. Stefano scrive: Marco è un caro amico, l'autore della storia di oggi, che ha salvato mio fratello. Grazie a lui per esserci e a voi per averlo mandato in onda. Noi abbiamo fatto veramente pochissimo. Grazie però a Tiziano Bonini, a Margherita Ina, al nostro Pietro Lacorte e soprattutto a Marco. Oggi la storia era la sua e lui, da oggi, è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Paolo, abito in provincia di Milano, a Canegrate. La storia di domani è la mia e parla di altruismo gratuito. Questa è la mia storia e io sono qui.